America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, abbiamo archiviato i campionati del mondo, eppure oggi dall'America voglio parlarvi di calcio. Perché? Beh, perché c'è una notizia nel contesto di un campionato che va avanti, mentre da noi i giocatori sono in vacanza, qua sono nel pieno delle loro attività, perché la Major League Soccer ha il suo torneo proprio in corso adesso, poi finirà a novembre. Qual è la notizia? Beh, la notizia ce la dà il Daily Telegraph, in realtà, un giornale britannico, secondo cui il signor Paul Kemsley, che è un agente immobiliare inglese piuttosto ricco, sta cercando di riportare in vita una squadra storica di calcio newyorkese, i famosi leggendari Cosmos. Beh, i Cosmos sono stati un grande esperimento, squadra, come ho detto, leggendaria, che fu inventata letteralmente da Stephen Ross, che era allora il capo della Warner Brothers, una delle più grosse società americane di grande intrattenimento. E Steve Ross decise che il calcio si sarebbe affermato negli Stati Uniti. Era un grande visionario, fu l'architetto di quello che poi divenne il grande gruppo multimediale di Time Warner, che si estende nel cinema, nella televisione, controlla la CNN, i magazine di Time e così via, AOL naturalmente. Ecco, l'idea di Steve Ross forse venne un po' prima del tempo, però il suo esperimento fu molto interessante perché riuscì a portare le grandi stelle del calcio in America: Pelé, Franz Beckenbauer, Johan Niskens e Chinaglia, Giorgio Chinaglia, che strappò alla Lazio. Riuscì a mettere insieme questa straordinaria squadra e poi però ci si accorse che la sua squadra c'era, appunto quella dei Cosmos. Purtroppo mancavano le squadre contro le quali poter giocare, c'era l'ostruzionismo da parte degli altri sport, il basketball, il baseball, il football americano, che non volevano intrusioni negli spazi televisivi e pubblicitari. Insomma, per farla breve, alla fine la North American Soccer League chiuse questo tentativo di campionato che durò dal 71 al 1984, si chiuse in modo fallimentare. Come vi ho detto, c'è questa idea di quest'uomo d'affari britannico che vuole cominciare a dicembre, e la sua idea è di cominciare con un training camp per i giovani, una squadra d'esibizione fatta così da campioni, un team competitivo, e poi piano piano vuole riportare la squadra in vita per poterla schierare appunto nel contesto della Major League Soccer. Tra l'altro questo signor Kemsley è un personaggio molto particolare e amico del pittoresco presidente di Newcastle United, Mike Ashley, che a sua volta fu vicepresidente del Tottenham, e nel 2008, quando il suo impero era valutato 180 milioni di sterline, subì delle perdite violente perché decise di investire, pensate, in Lehman Brothers, che poi, come tutti sanno, fallì portandosi dietro la crisi finanziaria. Adesso questo suo ritorno al calcio con i Cosmos, ma promette bene, promette male, non lo so, però sono riuscito a trovare un personaggio alquanto straordinario con cui parleremo, Jay Sugarman, il quale è per professione un hedge fund manager, ma per passione e per hobby fondatore di squadra calcistica. Ha fondato i Philadelphia Union. Ecco, chiedo a Jay se non è stato un po' un pazzo a immischiarsi in un'operazione finanziaria che comporta un grande sborso per sostenere una squadra di calcio in America. I Cosmos sono andati malissimo, le cose non è che stanno andando molto meglio. La risposta di Jay è molto chiara, mi dice: 5 anni fa avresti potuto avere ragione, però ora la situazione è cambiata e credo che sia un ottimo momento per essere un proprietario. Beh, perché il calcio si è radicato negli ultimi 15-20 anni e quindi il potenziale per crescere e competere con gli altri quattro sport, che sono poi gli sport che si dividono lo spazio televisivo, gli introiti pubblicitari, secondo lui ci sono e come. E chiedo a Jay qual è la storia della sua squadra, perché poi le squadre hanno bisogno anche di tradizione. Well, the Union is a new team. There hasn't been soccer in Philadelphia for probably over 20 years since the North American Soccer League disbanded. Beh, la risposta è molto interessante, perché gli Union, Philadelphia Union, sono una nuova squadra. Il football non c'era, il calcio, anzi il soccer non c'era a Philadelphia da almeno 20 anni, da quando era stata eliminata la vecchia Lega Calcio, la Northern Soccer League. E dunque la città di Philadelphia ci tiene molto al calcio e Jay dice di aver cominciato questo progetto in modo alquanto scientifico 5 anni fa, cominciando con il mettere insieme una squadra, trovando un allenatore importante, perché era l'allenatore dei giovani della nazionale americana, ha trovato un chief executive officer, un manager, e ha costruito, come dicevo, in modo scientifico questa operazione, riuscendo a farsi dare i permessi dalla città di Philadelphia per poter costruire uno stadio. Ha acquistato il terreno e lo ha costruito. Ci sono a questo punto i presupposti per l'espansione e finora il progetto è costato a Jay Sugarman $150 milioni. Però l'obiettivo è che nel giro di pochi anni questa squadra del Philadelphia Union possa valerne anche fino a 500. Resta, secondo me, ovviamente un problema di struttura paese. I ragazzi qui giocano a calcio quando sono piccolini, crescono con il calcio, poi però quando diventano grandi alla fine lasciano perdere, perché il bombardamento televisivo e un altro. E la risposta che mi dà Jay a questa domanda, eccola, sentitela. And the way I think about it is that first generation that did play a lot of soccer really didn't have any heroes in the United States, didn't have anybody to follow. La prima generazione di bambini che ha seguito il calcio in America non aveva degli eroi da seguire. Era la generazione che poi ha assistito ai mondiali del 94, da allora sono passati 16 anni e adesso quelli che erano bambini allora a loro volta hanno dei bambini. La Lega adesso ha delle star internazionali, le squadre sono in rivalità fra loro, comincia ad esserci una forte copertura mediatica, la squadra nazionale americana ha funzionato e quindi la seconda generazione diventa la seconda fase dello sviluppo di una grande lega. La terza fase è che i bambini di adesso giocano a calcio, vanno alle partite con i genitori e poi creano dunque quelle connessioni anche familiari di tradizione che hanno fatto grandi sport come il football, il baseball. E dunque, mi dice Jay, io sono convinto che nei prossimi 10 anni il calcio diventerà uno sport principale. Se inserito in un buon mercato può rendere tanto. E mi ricorda che gli Yankees a un certo punto in gravissima difficoltà nel 73, pensate, valevano appena $8 milioni, oggi sono valutati in $2 miliardi. Ma sul piano demografico esiste forse un segreto? Well, actually the population continues to evolve. Il segreto di Jay è nell'evoluzione demografica americana. La popolazione è in crescita, ma soprattutto è in crescita sul versante ispano-americano. Le previsioni sono che entro il 2050 la popolazione ispanica sarà di circa il 50% della popolazione totale americana e dunque non potrà che portare con sé, dice Jay, la passione e la fede calcistica tipica delle società sudamericane. Sta pensando Jay ad acquisti importanti, per ora il campionato non sta andando benissimo, però spera lo stesso di potersi qualificare per le finali a novembre. E mentre prima gli americani compravano soprattutto star della vecchia generazione, star ormai affermate ma che non giocavano più, adesso stanno cominciando a entrare nel mercato acquisti dei giovani e lui stesso dice che è dietro a un giocatore argentino molto promettente, molto giovane e molto conosciuto. Naturalmente non ci può dire chi è. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, una curiosità sempre legata al soccer, al calcio. Se questo sport che noi amiamo così tanto non si è ancora affermato completamente in America, ma insomma come ha detto Jay Sugarman, forse ci manca poco, c'è una curiosità, e cioè che uno dei cori, uno dei canti calcistici più conosciuti al mondo, You'll Never Walk Alone, dei tifosi del Liverpool, che viene cantata sempre durante, prima, dopo le partite dei Reds, adesso poi l'ascolterete, dunque la riconoscerete subito, è in realtà una canzone di origine americana. L'hanno scritta Roger Hammerstein per il musical Carousel, pensate, nel 1945. È stata poi rifatta. Ecco per voi di Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.